Ciao, allora c'è una domanda che mi sono dimenticata di farti. Quanto costa navigare su internet alla Visi? Bon, costa 5 franchi l'ora, però può stare mezz'ora o di meno, non c'è problema con il tempo. Sì, Quindi è è proporzionale. proporzionale al tempo che uno rimane in internet. Quindi se uno sta mezz'ora paga 2 2 franchi franci e 50. e 50. Ti ringrazio. Prego. Ciao.